Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Frederica aveva notato un fregio che correva tutto intorno al salone sotto la tribuna. Non ne aveva ricavato che una vaga impressione di alberi, figure nude che correvano e animali, bassorilievi in gesso. Ora, contemplandoli diligentemente, vide che le figure erano insieme vigorose e leggermente rigide, commistione impacciata di arte inglese e classica. Individuò un uomo nell'atto di diventare un cervo. «Atteone», disse la colta Frederica. «Giusto», rispose Crow. «Questa parete illustra il mito di Diana e Atteone. L'altra riproduce Venere che dà la caccia all'errante Cupido. Sull'altro lato della stanza, in uno stile molto meno fluido e più artificiale, Venere si svegliava in una stanza silvestre, con pareti dall'ambigua decorazione, alberi bianchi o colonne dalle cime frondose. Sopra la porta del salone, dirimpetto alle due dee, c'era un ritratto fedele della regina stessa, perfettamente congeniale al dramma di Alexander. Frederica alzò gli occhi verso quella creatura nell'insieme più infagottata, meno delicata, e disse che la regina sembrava accovacciata. «Ma è così», disse Crow, «in parte per effetto di prospettiva, ma soprattutto perché il suo vestito è la carta dell'Inghilterra, che richiede una qualche compressione ed estensione del corpo. Osserva l'estrema propaggine occidentale, Finisterre, che fluttua dietro il suo ginocchio sinistro, e la Scozia, annodata alla sua spalla sinistra. La cornucopia, cominciò Frederica avventatamente, sembra uscire da tra le sue gambe. Credo che quello sia l'estuario del Tamigi, centro dei commerci. Questa è Elisabetta come Vergine Astrea, l'ultima delle immortali, dea della giustizia che ascese al cielo nell'età del ferro e divenne tutt'uno con il segno zodiacale della Vergine. Acquisì i piatti della bilancia, ma anche gli attributi della Vergine, costellazione del raccolto, poiché Vergine e bilancia sono i segni dei raccolti. Lo so, sono nata sotto il segno della Vergine, il 24 agosto, San Bartolomeo. Inaspettata congiunzione di presagi. Oh, non creda a queste cose. Era nata sotto il segno della Vergine, Elisabetta. Dice che la Vergine dello Zodiaco e la Vergine Maria siano strettamente connesse a divinità ben più sgradevoli. Cibele, Diana, Astarte. Frederica si soffermò obbediente su quell'Elisabetta Vergine Astrea. A causa della posizione accovacciata, la figura, un po' assurda, aveva una presenza dirupata, ctonia, amorfa, più primitiva delle ninfe e delle dee con i loro seni perfettamente sferici. Il tirocinio estetico di Frederica non finì. Tutti gli ospiti, volenti o nolenti, furono costretti ad una visita guidata delle stanze da letto di rappresentanza. Una fuga di stanze, denominate ognuna su base cosmologica, sole, luna e pianeti. Ognuna con un enorme letto a baldacchino sotto un soffitto riccamente affrescato. Quelle stanze spaziose e piene di spifferi avevano diverse porte di entrata e di uscita che davano su spogliatoi, corridoi e pianerottoli. Crow, tutto immerso nel ruolo, un po' governante, un po' storico dell'arte, un po' sorvegliante di schiavi, reggeva tra le braccia i molti fogli di carta che proteggevano dalla luce i copriletti ricamati. Wilkie disse: «Mi chiedo da quanto tempo nessuno fa l'amore in questi letti. Esperienza insolita e grandiosa, immagino. Devono aver sofferto molto il freddo di notte, sino con il camino acceso e gli spessi tendaggi». «Mi viene da pensare», intervenne Frederica, «che si solleverebbero nugoli di polvere. Mi viene da pensare che, nascondendosi tra quelle tende, si rischierebbe una crisi claustrofobica. Mi viene da pensare che, essendo in certa misura un luogo di passaggio, questa stanza spegnerebbe ogni ardore». «Al contrario», disse Crow, «il soffitto è stato progettato per accenderlo». «Non con me», rispose con il consueto vigore Frederica, che ancora non aveva propriamente sperimentato infuocati preliminari d'amore. Wilkie fissò il tron lei della cupola e un attimo dopo si tolse gli occhiali. Quando si voltò verso di lei, Frederica ebbe la sorpresa di scoprire che i suoi occhi, che immaginava di un azzurro luminoso come le lenti, erano di fatto color cioccolato. Lui batté le ciglia, lei batté le ciglia. La volta raffigurava la morte di Giacinto. Era di dubbio gusto, se così si può descrivere lo strano disagio che coglieva la maggior parte di quelli che lo guardavano. La pallida divinità solare, nella sua aurea nudità, un'elaborata cascata di riccioli d'oro sulle spalle strette, si inginocchiava e spalancava le braccia in un gesto di orrore o di erotica ammirazione davanti al corpo bruno e sanguinante del ragazzo, disteso e idealizzato, il cui sangue vermiglio macchiava di arabeschi la sabbia rossa e già germogliava sui bordi della pozza in giacinti purpurei su scarlatto e terracotta. «È morto?» puntualizzò Frederica. Le sembrava importante stabilire che fosse morto. Morte ed estasi sessuale erano immagini intercambiabili. «E lo sono ancora», disse Wilkie. «La gente assume quell'aria lì, morta o estatica?» Parlava con autorevolezza. Frederica non ebbe alcuna voglia di domandargli come faceva a saperlo. Alexander e Jennifer avevano fatto in modo di restare indietro, sotto la visitazione della luna. «Jenny, vieni qui. Vieni qui tu e guarda questo letto». Erano l'uno accanto all'altra e contemplavano la convessa superficie di seta. «Dici sempre se solo avessimo un letto? Ecco, un letto mostruoso». Alexander convenne che lo era. La sua mano trovò quella di lei nell'incavo delle reni. Restarono allacciati. «Ti spingerei sul letto», disse Alexander, «con infinita dolcezza. Solleverei i tuoi piedi così e ti toglierei le scarpe e ti scioglierei i capelli e poi ti toglierei tutto il resto piano piano e farti stendere e resteresti lì a guardarmi mentre rabbrividisco in mezzo a tutto questo spazio. No, io ti avrebbe potuto scriverlo in versi, non riusciva a dirlo. Mi faresti tante cose, lo so, ne abbiamo già parlato, ma non lo facciamo, no? Lo faremo, abbiamo mesi davanti a noi. No, dobbiamo rinunciare oppure, disse Alexander, oppure sposarci. Allora potremmo sposarci. Alexander fissò le tende che ondeggiavano. Si rese conto di considerare Jennifer inadatta al matrimonio. L'attirò a sé, temeva di essere visto, la spinse piuttosto brutalmente dietro il baldacchino del letto e la baciò. Un trapestio, si separarono di colpo. Alexander indicò il soffitto e recitò il primo verso che gli venne in mente. «E tu che torni sulle tue ruote d'argento?» «Oh sì, Tennyson!» disse Frederica con un risolino di vaga complicità. «Ho sempre pensato che si riferisse a una statua montata su ruote, non a un cocchio. Che sciocca! Mi hanno mandato a cercarvi. Il signor Crow vuole chiudere quest'ala del palazzo e condurci alla torretta in cui abiterà quando arriveranno gli studenti. Vuole mostrarci il suo Marsia, dice. Personalmente, non essendo abituata alle visite guidate, dubito di farcela proseguire. Comunque, eccomi qua». La piccola ala di Crow, seppure meno sontuosa degli appartamenti di rappresentanza, era tuttavia imponente. Offrì il tè agli attori nel suo studio, una stanza scura rivestita di legno, nella quale solo il piccolo Marsia era illuminato direttamente, e Frederica, a prima vista, lo scambiò per un Cristo in croce, cupo e tetro. Crow le passò un braccio intorno alle spalle. «Che te ne pare?» «Non mi piace». «È straziante, è adorabile. È il momento della nascita di una nuova coscienza». Marsia gridò ad Apollo: «Perché mi strappi a me stesso?» E Dante implorò di venire così lacerato. Invocava Apollo di trattarlo sì come quando Marsia traesti della vagina delle membre sue. Ancora una metamorfosi. La scintillante farfalla dell'anima si separa dalla pupa del corpo. Un'immagine dell'arte. «È repellente», disse Frederica. «Faccia meno dell'arte se deve essere così sgradevole. Molte grazie». «Ti senti ancora oppressa dalla mia bella dimora?» «Oh, anche di più». «Ma è più interessante». «In che senso?» Rifletté, lanciando un'occhiata fredda al satiro impiccato. «Beh, diciamo che prima di vederla mi sembrava straordinaria ma irreale, e adesso che l'ho vista mi sembra straordinaria e troppo reale. Ma ciò che veramente desidero è una bella passeggiata all'aria aperta». Crow rise e la lasciò andare. «Devi tornare a vederla», disse. devi familiarizzare con tutto questo. La Pasqua. La Pasqua, in quell'anno di violenti contrasti, fu anomala, soprattutto nel nord. A nord-ovest ci furono quelle abbondanti nevicate, il venerdì santo, e il lunedì di Pasqua, improvvise grandinate. A Calverley e Blessford, un cupo nevischio si alternò a un sole vitreo. Quelle tempestivamente sparirono. Felicity Wells abbandonò nastri e coccarde per dedicarsi alla decorazione del caro piccolo navata centrale di San Bartolomeo. Alexander si comprò una Triumph grigio argento di seconda mano e partì. Comprò anche il nuovo disco di Elliott che legge i quattro quartetti. Frederica, con furiosa determinazione e mostrando la virtuosa diligenza del discepolo verso il maestro, riuscì a farselo prestare per ascoltarlo durante le vacanze. Dopodiché lo fece girare senza sosta, come se fosse un talismano, e l'ininterrotta ripetizione di quei ritmi finì per esasperare ogni membro di quella famiglia poco musicale. Il giorno di Pasqua, Stefani decise di andare in chiesa. Si mise un cappello per rispettare le convenienze, un mezzo melone di velluto blu scuro con un accenno di veletta. Così addobbata e preceduta dal disco ondeggiante di un ombrello scarlatto, si fece strada fra le lapidi e l'erba bagnata. Sarebbe potuta venire in chiesa per varie ragioni, senza il problema di Daniel. Sarebbe potuta venire per far contenta Felicity. Sarebbe potuta venire perché le piaceva partecipare alle solennità dell'anno. In altre Pasque aveva colorato le uova, rosso coccinella e oro cipolla. Si era spinta fin nei villaggi minerari per vedere le uova disposte su tavole improvvisate nelle salette al primo piano dei pub, uova bollite con felci e centrini di pizzo, bollite con calzini piastrosi e vecchie cravatte di club, con barbabietole, cera e genziana. Al padre piacevano le uova dipinte, ma non metteva mai piede in chiesa nel periodo di Pasqua. Stefani faceva come capitava. Quest'anno era diverso. Era arrabbiata con Daniel. Era venuta per vederlo in chiesa, nel luogo a cui apparteneva. L'aveva offesa. Le aveva ficcato tra le cosce il suo faccione consacrato, tremando. Le aveva dichiarato la sua passione e poi le aveva detto di andarsene a casa e non pensarci più. L'aveva coinvolta in quel balletto di formalità e buone maniere, di storie morte e cerimoniali. L'aveva fatta sentire una seduttrice di professione. Vedendola in chiesa, lui avrebbe capito che era dispiaciuta e rispettosa. E lei, vedendolo in chiesa, si sarebbe senz'altro resa conto dell'assurdità di tutta la faccenda. Poi, sotto il portico della chiesa, si sarebbe sbarazzata del pensiero. Una delle sue allieve del quarto anno le porse un libro di preghiere. Sedette in fondo contro una colonna e vide la signorina Wells fare il suo ingresso in un fruscio di sciarpe di chiffon in varie tonalità di rosa che pendevano da un cappello a forma di piatto e svolazzavano come farfalle malandate sul colletto tra i bottoni dell'impermeabile color topo. Dopo di lei vide entrare suo fratello Marcus e un giovanotto che riconobbe vagamente e poi identificò come quello strano tipo di biologia che una volta, a una festa di Natale della scuola, l'aveva ripetutamente invitata a ballare, lasciando grosse impronte di mani sudate sul dorso del suo tenue abito da sera. Lucas Simmons si inchinava e sorrideva a tutti, spingendo Marcus verso un banco, come una chioccia con un pulcino o un ciambellano con un principe. Stefani fu profondamente colpita nel vedere che entrambi si inginocchiavano e poi si facevano il segno della croce. Cosa significava? Da quanto tempo andava avanti? Marcus non dava segni di averla vista, ma faceva sempre così. L'organo esordì ansando, prese fiato, esplose rumorosamente. Poi entrò il coro, con passo strascicato, levando un canto acuto attutito dal peso dell'aria umida che stagnava tra gli archi della volta. Insieme a loro, vicario appesantito, c'era Daniel con indosso una cotta. Li seguiva il pastore Allenby, al quale spettava la lettura dell'offertorio pasquale. L'espressione di Daniel mal s'accordava con l'allegria della musica. Le sopracciglia nere si univano sul naso. Si sarebbe detto che stesse per imbarcarsi nel sermone contro i peccatori. Stefani riuscì a distinguere la voce roca di basso, intonata ma non armonica. I suoi sforzi sembravano diretti a creare un ritmo di fondo che gli altri cantori potessero seguire. Stefani neanche provò a cantare. Contrariamente a quanto aveva creduto, forse temuto, Daniel non aveva un'aria stupida, né sembrava ardere, come pure s'era immaginata, di energia spirituale. Era venuta per vedere quell'energia in azione. Era venuta per guardarlo pregare. Ma lui aveva l'aspetto di sempre, nero, carnale, solido, con la batista bianca che sembrava un bavaglino leggero, del tutto estraneo a lui. Stefani sorrise tra sé, e mentre sorrideva, lui la vide. La guardò e corrugò ulteriormente le sopracciglia, con l'elettrica rigidità di uno shock. Distolse lo sguardo. Poi, lentamente, sopra il collare sacerdotale e il candido plissé, arrossì, si infiammò e infine prese fuoco dalla mandibola bruna fin sugli zigomi e sulla fronte. Stefani si sentì colta in un'azione di cattivo gusto. La grandine crepitò più violenta sulle vetrate. La congregazione recitò i salmi con quell'insieme di parlato e cantato, di stridore disarmonico come gesso su una lavagna, lamentoso, atono, rassegnato e lugubre, terribilmente inglese. Ne fu disgustata. Forse c'era qualcosa di particolarmente sgradevole nella Pasqua inglese. Non si era riusciti a innestare nella primavera inglese i sanguinari riti orientali e il dio straziato, come invece si era riusciti a conciliare le celebrazioni nordiche del solstizio d'inverno, la stella cometa, l'albero sempreverde, il bue e l'asinello, il messaggero luminoso e la terra di sassi gelati. C'era qualcosa di crudele e barbaro nelle letture del giorno di Pasqua, che non aveva nulla a che vedere coi delicati pulcini color limone e che si poteva forse ricondurre ad atrocità druidiche ormai dimenticate. La lettura dell'Esodo parlava dell'agnello pasquale e del Dio che solcava i cieli di notte e massacrava i primi nati di uomini e bestie. Dava istruzioni affinché si cospargesse di sangue la soglia di ogni casa e si sgozzasse e arrostisse allo spiedo l'offerta immacolata. La natura lanuginosa, bianca e scarlatta delle anime lavate nel sangue aveva disorientato e atterrito generazioni di uomini e di inglesi. Ma restava estranea. Il vero miracolo era la nascita, rifletté ancora Stefani con freddo raziocinio. E la risurrezione avrebbe potuto essere un miracolo ancora più grande a prestarvi fede, ma il sangue che beviamo, la sagoma effimera che esce dal sepolcro profumato di spezie, non sono né credibili né necessari come invece lo è il canto degli angeli nei cieli al momento della nascita. La Pasqua inglese cercava di innestare sulle immagini del massacro rituale purificatore il rinnovarsi della linfa, i saltellanti agnelli, lo spuntare di setosi pulcini, da uova lisce e sigillate, oro vivo che cola dalla pietra. Ma la mente inglese provava un segreto orrore per il mare vetroso, le pareti di cristallo, la lana bianca, i piedi di bronzo e il trono della Nuova Gerusalemme, dove la primavera non sarebbe mai tornata perché non c'era erba né inverno. Dopo il rito, il signor Allenby e Daniel si misero sulla porta per congedare personalmente i fedeli uno con una tremana. Ora Stefani sapeva che non sarebbe dovuta venire e che Daniel sapeva che era venuto per vederlo pregare. Indugiò dunque, dirigendosi verso il sepolcro della signorina Wells, intorno al quale si era riunito un gruppetto di persone che ne elogiavano la squisitezza. Era sistemato su un mucchio di pezzi di calcare e granito della zona, accuratamente selezionati, i cui interstizi erano stati riempiti di terra umida e coperti con zolle di muschio. La signorina Wells pregò Stefani, come aveva già fatto una volta, di odorare il profumo di miele e di vino delle primule. Le diede ascolto e ritrovò il profumo di allora, puro miele, puro vino, terra fredda. Una voce irruppe ricordandole altri problemi. Lucas Simmons si aprì un passaggio e le si affiancò. Ringraziò la signorina Wells per il piccolo delizioso sepolcro, come se l'avesse fatto in suo onore, salutò Stefani e disse che era stata una funzione assai riuscita a suo avviso. Stefani non sapeva cosa dire. Ancora più del Cristo e dell'angelo di ceramica, Lucas Simmons aveva un sorriso perennemente dipinto in faccia. Stefani incrociò senza volerlo lo sguardo di Marcus. Se Daniel era arrossito, Marcus impallidì. Con le mani si pieghettava nervosamente i calzoni sulle cosce. Stefani pensò che, a sua memoria, era la prima volta che lo vedeva insieme a qualcuno, almeno apparentemente per libera scelta. Era la prima cosa, a parte gli impegni quotidiani, che gli vedesse fare da quando aveva interpretato Ofelia. «La Pasqua è tempo di trionfo», disse Simmons. «La Chiesa non ha mai compreso pienamente il significato universale della Pasqua. È la Pasqua, non il Natale, come lasciano volgarmente supporre le nostre abitudini, la festa principale del vero calendario. In essa celebriamo la nostra unità con la creazione vegetale, l'erba falciata che rinasce, il raccolto che viene dalla semina dei chicchi mietuti. Nella Pasqua celebriamo anche l'eternità dello spirito, l'eternità delle specie, la certezza che non falliremo. In questa solennità c'è qualcosa per tutti, persino per quelli che non condividono la nostra fede, che non celebrano lo stesso rito. Ognuno deve fare professione di fede secondo l'epoca e il luogo in cui si trova. Non l'ho mai vista qui, signorina Potter?» «No, di solito non vengo.» «Sono lieto di vederla in questa occasione», disse Simmons come se la chiesa gli appartenesse. «Dobbiamo filarcela, Marcus. Il lavoro ci aspetta.» «Il giorno di Pasqua!» protestò la signorina Wells. «Lavoro di Dio!» ribatté Simmons chinando il capo e sospingendo Marcus fuori dalla chiesa. «Lavoro di Dio!» Aveva smesso di piovere. Stefani vagabondò nel campo santo della chiesa, tra tumuli erbosi e lapidi sbilenche. Si fermò a guardare un ciuffo di giunchiglie piantate in un'urna lucida tra frammenti di marmo. Erba, giunchiglie, tassi, i morti, Marcus. Si chiese se fosse davvero il caso di rallegrarsi che Marcus avesse un amico. Non ne aveva mai avuti, non aveva mai portato a casa nessuno. La scontrosa cupezza della loro vita familiare giustificava che la cosa passasse inosservata, come era passata inosservata la riluttanza sua o di Frederica a invitare amiche. Lei ne aveva avute di amiche, era popolare nel suo modo discreto, era andata in campeggio con le giovani esploratrici. Frederica aveva stretto relazioni appassionate con ragazze molto più grandi o molto più piccole di lei, finite sempre in modo disastroso con rotture o repentina avversione. Ma la condotta imprevedibile del padre le dissuadeva dall'invitare le amiche. Eccellente insegnante, era capace di esaminare socraticamente una giovane visitatrice, prestando un'attenzione lusinghiera e manipolatoria alle sue idee e convinzioni. Ma accadeva anche di sentirlo urlare dall'altro lato delle leggere pareti di canniccio che stava lavorando e che la mancanza di rispetto per il suo bisogno di silenzio era intollerabile. O peggio, che la carne macinata era già stata servita una volta di troppo quella settimana e che la cuoca rischiava di vedersela scagliare addosso. Quanto a Winifred, dava l'impressione di credere che la loro vita familiare fosse assai più intensa e significativa di quanto potesse essere, se ci fosse stata l'occasione, il casuale intrattenimento di un ospite. Stefani pensò: «Non ho la minima idea di come si comporti Marcus con gli altri ragazzi, perché non l'ho mai visto con nessuno.» Pensò: «Anche nel caso che quell'uomo tenti discutibili approcci, è sempre meglio di niente.» Ma quella frase di Simmons, «lavoro di Dio», non l'era piaciuta, no. Era una frase altezzosa, ostentata, compiaciuta. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.